get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a voi. Oggi noi del CLR vi facciamo assistere ad una nostra riunione dove ci interroghiamo sul significato dell'8 marzo e cosa rappresenta per noi al di là delle celebrazioni e delle caricature che spesso si incontrano proprio in questa giornata. Ascolterete la riflessione su cosa dire e quale contributo portare come lesbiche a questa lunga maratona radiofonica. Questo perché le nostre trasmissioni hanno sempre un taglio specifico che non volevamo abbandonare, ma non volevamo neanche allontanarci troppo dal tema centrale di oggi. Quindi ci sentirete parlare, ragionare, sproloquiare, ridere e tanto altro ancora. Di sicuro ognuna di noi vi offrirà un pezzetto della propria storia. Ma ora sentite in diretta, o quasi, la nostra riunione. Buon ascolto. Allora, non so come metterla però sta discussione. Non lo so, qualsiasi cosa che possa dare la priorità a nostra che è rispetto al lesbismo e non al mondo del lavoro. Capito? Cioè, non perché i due discorsi siano legati fra di loro, ma semplicemente che noi, facendo una trasmissione lesbica, pensavamo di rimanere sul nostro filone guida, che è quello del mondo lesbico, e quindi abbiamo affrontato una lotta che per noi lesbiche significa l'affermazione del lesbismo, capito? Cioè uscire dall'anonimato, dal silenzio. Ma sul lavoro? No, in generale. Possiamo dire una cosa tipo la rappresentazione, l'autorappresentazione è sempre stato un punto fondamentale per le lesbiche e per noi del CLR. Possiamo porre l'accento sul fatto che la nostra lotta è tutti i giorni. Per avere una rappresentazione positiva. Io al lavoro, cioè, non mi ci addentrerei una cosa del genere, perché sennò siamo poi. Come lesbica si potrebbe comunque toccare, però se tu ci avessi eventualmente delle testimonianze di donne lesbiche che sono state discriminate sul lavoro, siccome questo non è. Cioè legare il nostro intervento al mondo del lavoro. Io lo vedo lontano anni luce per il tipo di discorsi che facciamo noi, per quello che portiamo avanti da anni nella radio noi, capito? Sì, appunto. Però io, cioè, almeno due parole per dire, allora, tutta la giornata parla delle donne e del lavoro abbiamo noi. Un minimo di cappello introduttivo per dire, io sappiamo perfettamente che voi siete a parte del lavoro, però per noi magari è fondamentale portare avanti un altro tipo di discorso. No, io allora farei un discorso di questo genere, sì. Cioè nel senso che noi, vi ricordate che qualche tempo fa avevamo cercato di aprire una riflessione su il lavoro, cioè la situazione di instabilità che si è venuta a creare e quindi di precarizzazione sempre più importante nelle vite di tutte le persone, donne e uomini. Quanto però questa precarizzazione incide per le lesbiche, se poi si parla anche di precarizzazione del lavoro, in relazione al fatto che già le nostre vite sono precarie, per una questione proprio di difficoltà a vivere l'identità in qualche maniera, anche se non so mai se è politicamente corretto parlare di politica identitaria o meno, eccetera, però per capirci, e poi quanto questo mondo sempre più precario incide sulle nostre vite anche su questi altri piani, perché poi le donne lesbiche puntano molto sul lavoro, perché il lavoro è un modo di avere indipendenza e per creare una situazione di affermazione personale. Quindi affermazione personale e indipendenza economica sono due questioni nodali all'interno delle quali le lesbiche stanno. Quindi la precarietà sicuramente crea un grosso problema alle lesbiche, sia essa precarietà del lavoro, sia essa precarietà di vita, perché più sei precario nel lavoro, più diventi precario nella vita. Se una lesbica deve rientrare a casa, per noi lesbiche è veramente molto più difficile, perché diventa complesso poter vivere la propria vita, che è fatta di affetti e dove la famiglia è altro. La famiglia è il gruppo delle amiche, delle amanti, delle ex amanti, delle fidanzate, eccetera. Le nostre famiglie sono che famiglie... Che poi concilia con la famiglia, anche se tu c'hai una... E quindi questa situazione di precarietà ha che ricaduta ha su di noi? E secondo noi una ricaduta maggiore che per le altre persone, che possono, gli etero possono trovare rifugio nella famiglia, per noi diventa una gabbia, non è più un rifugio, e quindi diventa una impossibilità di vita. No? Indipendentemente poi dal rapporto che tu hai con la famiglia, perché all'interno della tua famiglia di origine tu potresti anche aver detto che sei lesbica, ma è proprio una regolamentazione della vita tua che è diversa, certo, da quella della tua famiglia di origine, per cui per quanto possano aver condiviso con te o tu possa aver condiviso con la tua famiglia di origine il tuo lesbismo, non puoi tornare a casa con mamma e invitarli a cena, perché non, certo, cioè, non possono collimare queste due cose, capito? Ecco. Quindi è questo. Allora, questo però a noi ci porta nuovamente ad analizzare alcuni aspetti, no? Quindi noi ci siamo chieste, nel nostro essere lesbiche, riconoscerci lesbiche, eccetera, quali sono stati dei passaggi significativi nel nostro riconoscerci lesbiche, appunto, e se sì, se c'è un ricordo particolare legato a questo. Quindi facciamo un salto indietro nel passato, o nel passato più o meno recente, però che per noi è significativo, insomma. Non secolo scorso. Possiamo dire, cioè, questa vita è così precaria che rimando hanno sull'immagine nostra di essere lesbiche, certo, e allora così per celebrare l'8 marzo vogliamo invece dare un'immagine, una rappresentazione positiva, e da lì potremmo pure vederlo in questo modo. E questa precarizzazione delle vite porta a una ricaduta sull'immagine che ognuna di noi lesbiche ha di sé, una ricaduta che per forza è negativa. E allora oggi, che è la giornata della donna, vogliamo invece dare, anche per darci una carica, una rappresentazione, un'immagine positiva di noi, che noi recuperiamo dal nostro passato. Per quanto riguarda anche il recupero del passato, io ci farei, perché io sono un po' fissata su questa cosa, il discorso delle tracce. Va bene, quindi allora, come diceva Stefania, no, per celebrare questa giornata, che è una giornata importante, anche se è inflazionata, l'abbiamo detto in tantissime altre occasioni, cioè è diventata un'occasione per vendere nastri di fiori, la mimosa o quant'altro, insomma. E a noi, i ristoranti pieni, le donne allo sbaraglio, una giornata sola. Allora invece noi ci piace ricordare, dal nostro punto di vista, qualcosa che è stato significativo nell'ambito del sentirsi lesbiche. Che cosa? Io ce l'avrei un aggancio, però, carino. Proprio riguardo al problema della precarizzazione lavorativa delle donne, che per noi lesbiche è un aggravante rispetto alla possibilità di vivere la nostra vita, io rileggerei quel pezzo di Matilde Finocchi che dice: io poi lavoro tutto il giorno in un negozio, ma quello mi serve per il mantenimento, la mia vita è un'altra parte. Brava! Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va, monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, zà, una guardata, una bruciata, quel corpo e non ci prova più. Tango! quella femminista. Tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ce prova più. Aritango della femminista. Ribellion con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena, se ne va che sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Ah, tango della femminista, tango della ribellion. Allora, proprio perché noi riteniamo che ci sia un grosso legame tra il lavoro e l'obbligatorietà al lavoro, anche se adesso è precario e quindi ancora peggio, e invece la ricerca di una soddisfazione nella vita, sia essa individuale che collettiva, tanto importante per noi lesbiche, cioè la ricerca di una soddisfazione personale e collettiva stando all'interno di una comunità. E vi leggiamo un pezzo, poi vi diremo da quale libro lo abbiamo preso, ed è una donna lesbica che parla, che si chiama Matilde. Per me questo lavoro, cioè questa decisione di partecipare a questa raccolta di interviste, perché infatti non lo reputo un lavoro nel vero senso della parola, mi ha preso molto, direi quasi tutto del mio poco tempo libero che mi rimane dal lavoro abituale, al quale mi sono sottoposta e che è quello di essere impiegata in un negozio. Ma questo è per vivere, per così dire, ottemperare e far bisogni quotidiani che solo il denaro ti dà. Dunque è stata effettivamente una grande cosa nella quale mi sono buttata dentro a capofitto e sentendola e vivendomela tutta fino in fondo. Allora, il libro di cui, da cui abbiamo tratto questo incipit è un libro molto datato, è del 1980 ed è una raccolta di interviste, di dialoghi tra donne lesbiche, 8 per la precisione, e il titolo è la madre, tra l'altro, è una pittrice, dialoghi fra lesbiche. Questo libro è uscito nel 1980 per la Felina Editrice, che era una casa editrice solo per donne e donne lesbiche, ed è stata fondata da Giovanna Tatò. E le interviste sono state fatte da tre donne lesbiche, Matilde Finocchi, Rosetta Froncillo e Alice Valentini. E vi leggeremo adesso alcuni stralci di questo libro, molto interessante, che per quello che riguarda me è stato non solo esaltante, ma anche molto addolcente, molto tranquillizzante e nello stesso tempo molto rivoluzionario. Perché da una parte mi tranquillizzava il fatto che c'erano altre donne come me, lesbiche, che vivevano le loro vite nella piena normalità, intesa come possibilità di vivere, di fare delle cose, e quindi non normalizzata, ma normale, cioè posso vivere, e dall'altra rivoluzionaria perché erano donne lesbiche che facevano tutto questo progetto, quindi il progetto del libro, ma non solo, il progetto delle loro vite, che era un altro grande progetto. Annalisa, vuoi leggere il pezzo di Giovanna Tatò che dice perché ha scelto di fare... Fatto così. Vai. È il primo libro di questa nuova casa editrice e ci ho tenuto molto a cominciare così, con la parola delle lesbiche, con immagini e fantasie di lesbiche. Io lo sono e ho tanta voglia di vivermelo pienamente. È stato sempre un discorso o troppo taciuto o troppo mistificato. È ora che le lesbiche parlino, senza intermediari, che comincino a conoscersi confrontandosi, che si facciano conoscere dalle altre donne, con calma, dialogando, approfondendo, Il tabù del lesbismo c'è nella stessa lesbica oltre che nella eterosessuale. Proviamo ad abbatterlo con delicatezza, ma anche con fermezza. Non lasciamoci accecare dalla paura e dalla emotività. Guardiamoci, siamo donne di fronte ad altre donne. La mia iniziativa editoriale è nata per questo, avere uno spazio attraversabile solo dalle donne, un mezzo gestito solo da donne e diretto solo alle donne, per far conoscere la nostra storia di lesbiche e non, il nostro pensiero, la nostra creatività, le nostre lotte. La possibilità di avere un rapporto più sereno con i nostri scritti, perché non passano più sotto le forche caudine dello sfruttamento commerciale dei vari editori maschi. Le nostre energie ce le passiamo tra noi. Arrivare a questo è la mia ambizione personale. Troppo utopistico? Non è vero, perché in parte questo già accade. E poi, sia pure, l'utopia è una grande molla. Questa casa editrice è uno strumento di lotta. Nasce con un'impostazione rigorosamente separatista e strada facendo si chiarirà anche su altri aspetti. Non ho esperienza, né ne ha Sandra, la donna con cui divido tanto, tra cui questo lavoro. Vedremo a mano che i fatti accadranno. Io non sono quella che ero 2 anni fa e non posso pensare che fra 2 anni sarò la stessa di oggi. Ma una cosa la voglio dire a piena voce, perché di essa sono sicura. Il grande amore che ho per le donne. Non me ne vergogno, è la mia forza. Credo pienamente in noi. E tutti i drammi che i nostri contatti quotidiani scatenano con le nostre incomprensioni, le distanze, le rotture, le difficoltà di ogni genere, fanno parte di me, insieme a tutto il resto che si potrebbe definire positivo. Tutto il mio mondo si gioca qui, entusiasmi, tenerezze, passioni, paure. E rivendico fortemente questo spazio all'invasione maschile. Si sono cacciati dappertutto gli uomini, nel quotidiano, nei pensieri, nei sogni, nelle utopie delle donne. Ebbene, questo spazio io me lo riprendo, giorno per giorno, e dico loro no. Ogni volume recherà la scritta questo libro è diretto solo alle donne, perché per me le donne sono le uniche protagoniste, le uniche interlocutrici, l'unico referente. I maschi è molto più giusto che vadano a riferirsi tra loro. Il sesso? La maternità? Ne riparleremo, abbiamo ancora tante cose da dire sull'uno e sull'altra. È un discorso lungo, ma anche qui ci sono spazi interamente nostri da rivendicare. Questa casa editrice vuole dire e fare tante cose. Sono immensamente grata a tutte le donne del passato e del presente che mi hanno consentito di realizzarla. Mi sento molto vicina a tutte, figure di donne colte nei libri, donne che ho incontrato anche di sfuggita, donne con cui ho lavorato, donne che ho amato e che amo. E ho voluto che questo libro uscisse di maggio, un mese noto come il mese delle rose o il mese mariano, in realtà un mese di antichissimo valore sacro e magico per le donne, ai tempi della Dea Madre. Possiamo dire che questa è stata un'esperienza importante, poi ha prodotto la felina editrice alcuni libri e poi, come tante esperienze di donne lesbiche, si è conclusa, ha avuto un suo percorso. Però, ecco, era un grande fermento. Questo libro purtroppo oggi non si trova più, ma... ma questo per me è anche importante parlare di questa, proprio a parte il libro di per sé, della casa editrice, perché noi per esempio nelle nostre trasmissioni abbiamo puntualizzato più di una volta che certe notizie sono venute a galla per il lavoro che delle altre donne hanno fatto per farle divenire a galla le notizie, capito? Così come il campo di Ravensbrück, certo, è venuto fuori perché delle storiche sono andate a vedere in fondo negli archivi. Ed è però delle donne lesbiche. Sì. La felina è questa, insomma. Sì. No, se vogliamo leggerci questi pezzettini che ho sottolineato, magari che possono essere carini. Ma no, io invece farei un'altra cosa. Adesso io farei una cosa, abbraccio l'aggancio personale, capito? Questo è un libro datato, no? Abbiamo detto che è del 1980, io l'ho ricevuto in dono nel 1986 e l'ho letto tutto d'un fiato. Ed è stato molto significativo per me, anche perché me lo regalò la mia compagna di allora, che su dei discorsi che facevamo tra di noi, perché lei mi diceva io sono lesbica da sempre, ma io sarò lesbica, le dicevo, perché io mi sono innamorata di te, pur stando in politica, però mi viene a dire, ma perché prima non mi sono mai innamorata? E lei poi mi regalò questo libro, perché poi ci sono anche dei dialoghi, cioè a un certo punto la storia di una che si innamora del fratello di quella di cui era innamorata, che è quello che è successo a me in realtà. Io sono stata tanti anni con il fratello della mia compagna di banco, della quale ero innamorata. Della quale ero veramente innamorata. Perché io ricordo il mio primo giorno di scuola, al liceo, ricordo questa ragazza, Sandra, che era come se fosse illuminata all'occhio di bue a teatro, perché vedevo solo lei. Le altre erano tutte figure indistinte, quindi la dice lunga. Poi dopodiché mi sono messa col fratello. E qui all'interno, esatto, ci stavo vicina. Però all'interno di questo, siccome queste cose le avevo raccontate alla mia compagna di allora, lei mi regalò questo libro perché all'interno c'è un dialogo proprio tra due donne che raccontano una storia simile alla mia. No, ma infatti in questo libro ci sono state dei passaggi nei quali magari tu ti sei identificata, no? Poi chiaramente questo è un libro datato, nel corso degli anni ognuna di noi ha avuto un qualcosa che l'ha rappresentato, che gli ha permesso di riconoscersi in qualche modo, capito? Quindi, E infatti Stefania ci voleva dire che è un pochino più giovane di me, per esempio, non dire, non sottolineare. Va bene, più giovane, basta. Giovane. Che nasceva negli anni 80. un po' prima, insomma. Per te invece? Parliamo di una cosa un po' più recente, un film, perché io amo i libri ma ci sono anche i film. Che è Due ragazze innamorate del 1995, un film che tutte avrete visto, sì. Diciamo un filmetto, se vogliamo dire, il filone delle ragazze al liceo, i ragazzi al liceo, insomma, è importante per me perché è stata una delle prime uscite con le nuove amiche lesbiche. E eravamo, nella mia memoria, eravamo 20, ma forse saremmo state una quindicina, 12, non so, però eravamo tante. Abbiamo riempito il cinema, cioè nel cinema c'eravamo solo noi. E c'è un punto nel film in cui la ragazza bionda, ora non ricordo il nome, viene insultata, gli viene detto sporca lesbica, che è il classico insulto. E in quel momento è stampato nella mia memoria, perché io vedo prima tutte teste che si muovono davanti a me, cioè tutte le mie amiche erano in fibrillazione, poi il popcorn che vola in aria e poi una marea di insulti allo schermo che sono stati liberatori. Un'insurrezione generale. Un'insurrezione, e questo è proprio stampato nella mia memoria, è stato un momento, il primo momento proprio che io mi sono sentita in una comunità, forse, cioè proprio mi sono sentita proprio gruppo con loro. E c'era la gioia di essere lesbica, però anche là, anche nel primo momento, la lotta, nel senso che era il gruppo che si difendeva da questo insulto, da questa cosa brutta che succedeva alla protagonista. Io invece ti racconto un altro episodio, io che sono un pochettino più grande di te, dico un pochettino così Lucilla non si arrabbia. Ma poi voglio dire, adesso ti dico questo episodio legato a quale film, forse si intuisce di che periodo stiamo parlando, perché il film in questione era Cuori nel deserto, che wow. È stato uno dei primi film ai quali le donne lesbiche hanno aderito in massa, perché io mi ricordo che andammo a vedere questo film, che eravamo, tu dici 20, a me mi sembrava che tutto il film fossimo soltanto noi, poi magari c'era pure qualche maschio poveraccio, però la scena invece è molto, molto diversa, perché siccome era una fase molto prima, un diverso tempo prima dell'uscita di questo di cui hai parlato te, c'era probabilmente il bisogno di riconoscersi in una storia positiva, no? La trama di Cuori nel deserto penso che sia ormai scontata e famosa, però c'è la storia di queste due donne che si incontrano per N motivi, una delle quali poi decide di tornare alla sua vita normale e prende il treno e se vuole ritornare verso la città di origine. E c'è quest'altra donna che lei ha conosciuto, che va alla stazione. E beh, io ricordo che praticamente tutte noi abbiamo spinto materialmente questa donna sopra il treno perché vai, parti con lei, capito? Però era anche lì un momento in cui tu hai sentito che le tue braccia che sostenevano questa che doveva salire questa, sulla scalinata di questo treno, era praticamente tutta la sala che la spingeva da sola e ti vai, capito? Per il bisogno di lieto fine, capito? Quindi, però ecco, sì, tu hai raccontato questa storia del film. Io, sempre per il discorso che sono di qualche anno più grande di te, dove veramente le situazioni nelle quali si poteva anche lontanamente intravedere una storia lesbica era veramente rara, però tu dovevi trovare una scappatoia all'assenza di tutto. Per cui io ricordo che, mi dispiace doverlo ammettere, ma è la canzone di un uomo, per esempio la canzone Giulia di Antonello Venditti, nella quale lui si raccomanda a questa Giulia dicendo: non me la portare via la mia fidanzata, perché lei magari è soltanto un po' confusa, capito? Ecco, tu lasciamela a me perché io sono seriamente innamorata. E io ricordo che in quel momento, e stiamo parlando di molti anni prima, di Cuori nel deserto, molti anni prima di Ragazze innamorate, e io ho avuto proprio la netta sensazione che non ero l'unica mosca bianca al mondo che provava certe cose, perché se addirittura Antonello Venditti, che già era Antonello Venditti all'epoca, diceva e faceva praticamente pubblica questa possibilità, a me ha dato il là per modificare poi tutte le canzoni che mi piacevano. Io le cantavo al femminile, capito? Cioè, se la cantante che a me piaceva, no, perché lui in questo momento non mi caga, e io cantavo, no, perché lei in questo momento non mi caga, io ho cominciato a cantare al femminile tutte le canzoni, capito? Ed era una cosa molto, molto divertente poi alla fine, perché non riuscivo neanche più a correggermi quando le cantavo davanti a altre persone, no? Che solitamente io capivo che avevo sbagliato a dire la parola, e quando vedevo le persone che stavano incontro, mi dicevo: ma che stai a dire? Lì capivo: no, aspetta, no, te l'ho detto lei, no, lei no, volevo dire lui, capito? Perché lì, no, era molto divertente come cosa, un momento molto divertente nel quale tu creavi l'inesistente, no? Pur di vederti riconosciuta in quale. E poi c'è stata la canzone di Patti Pravo, e io e lei, fra di noi, pensiero stupendo, che quella è stato un inno per le lesbiche. C'era bisogno di cambiare, la canzone non bisogno di cambiare nessuna parola. E tu? E lei, se noi vorrei, non so che lei o no, le mani, nessun pensiero stupendo, ma se un po' strisciato potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, amore, e lei, amore, vorrei. Va a cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore, pensiero stupendo, lascio un poco strisciato, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Meglio non dire. true. Oh, hey, son, oh, hey, hey, I'm just a sucker, hey, hey, my, che siete all'ascolto del contributo preparato dalle donne del CLR per questa giornata delle donne 2014 che il martedì femminista e lesbico autogestito ha preparato sempre sugli 87,9 MHz di Radio Onda Rossa. È quindi una puntata particolare della nostra trasmissione, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, speriamo che sia di vostro gradimento. Per contattare noi del CLR potete scriverci una mail a contatti@clrdp.it oppure visitare il nostro sito www.clrdp.it e su Facebook abbiamo la pagina che risponde al nome di clr.roma. Continuiamo con la nostra trasmissione. Ritornata fuori nel deserto invece, una parte che a me piaceva tanto, più che quella del treno, dove anch'io stavo a spingere però, naturalmente, però è la scena di loro due in macchina, dove la giovane, la lesbica, tra l'altro, le chiede insomma, di uscire, perché loro praticamente si incontrano e da quando scoppia la passione tra di loro stanno sempre a letto, insomma, no? E quindi le dice la giovane, sì ma dobbiamo uscire, mangiare qualcosa, e quindi sono in macchina praticamente. E l'altra, che è un'insegnante tra l'altro, cerca sempre di nascondersi, insomma è paurita. E a un certo punto, mentre discutono, diciamo la professoressa dice... ma non puoi cambiare il mondo, no? E lei risponde, la lesbica doc, risponde, Io non pretendo di cambiare il mondo, pretendo che il mondo non cambi me. E questa è stata una frase bellissima che io ricordo tanto, proprio bella, si attanagliava proprio a quello che pensavamo, insomma, no? Certo. Le amiche che eravamo a vedere quel film pensavamo: noi non vogliamo cambiare perché qualcun altro ci dice che dobbiamo essere diverse, noi siamo così. E ci rappresentava in piena regola, insomma. E questo poi rientra nel discorso originario poi dell'incipit di questo discorso che stiamo facendo, di quanto possa essere importante comunque per un sostentamento economico, quindi il lavoro, proprio perché certo, per essere quello che sei tu devi avere un'indipendenza economica che è alla base di tutto quello che tu vuoi fare, perché se tu sei autosufficiente economicamente non stai al ricasco di nessuno e nessuno ti può ricattare più di tanto. Esatto. Cioè il ricatto sicuramente lo possono fare, basta però attraverso però altre vie. Però tu sei forte di tuo, capito? Hai esatto, una base tua che non... Tra l'altro, non so se vi ricordate, in Cuore nel deserto lei, la ragazza, che è quella lesbica, aveva dei problemi al lavoro perché il capo ci provava con lei. Sì, continuamente. E quindi c'era proprio una conflittualità, sì. Certo. Cioè, sì. Annalisa, vuoi dire qualche altra cosa? Qual è stato un film per te? No, più di un film, pensavo questa storia del lavoro, del fatto di come io, diciamo, mi sia laureato, abbia studiato, sempre più forte man mano che maturavo la coscienza di essere lesbica e capivo che la mia libertà, il mio vivere il lesbismo era solo andando via dalla mia città, perché venendo da Napoli ovviamente il condizionamento di non viversi apertamente il proprio lesbismo è condizionata molto dalla famiglia, dai vicini, dalle dicerie eccetera eccetera, per cui il lavoro per me è stata proprio la salvezza, riflettevo su questa cosa che non sarei mai potuta essere pienamente lesbica, vivermi il mio lesbismo se non avessi il lavoro che ho avuto che mi ha portato ad andare via da Napoli. Certo. E a stare qui a Roma e conoscervi tra l'altro, per cui no, come cosa divertente, vabbè, sicuramente mi ricordo che avevo vissuto appunto a Napoli in maniera molto cupa il mio essere lesbica, perché mi ero innamorata di due donne, insomma, vabbè, non sto adesso a dire tutta la mia vita, però insomma mi ricordo di questa festa dove vi ho conosciuto, che era una festa di compleanno dove tra i regali c'era questo libro di Patrizia Cavalli e io ho passato tutta la notte a leggermelo, incredibile, mi sono fermata per la lettura. C'è un paio che sono secondo me bellissime e ricordo questa mia felicità di capire che non ero la sola nel mondo, ma c'eravate tutte voi, veramente una festa bellissima, e questo libro, vabbè, insomma, Sì, perché anche la Cavalli è un'altra di quelle proprio interessanti assai. No, ma c'era anche un'altra cosa che a me mi era un altro libro che pure a me mi è piaciuta, che era della Patricia Highsmith, Carol. Ah, che è un libro scritto magistralmente come tutti i libri della Highsmith, ma c'era un passaggio che a me mi ha proprio folgorato, perché praticamente una delle due protagoniste è commessa in questo grande magazzino, è il periodo natalizio, e per cui lei è dietro al bancone che vende questi regali, questi doni per quegli avventori che vengono lì, e a un certo punto vede entrare questa donna con un cappotto che, come tu dicevi, che era con l'occhio di bue sopra, e era praticamente l'unica cosa che lei probabilmente riusciva a vedere a colori dietro il grigiore della monotonia quotidiana dentro questo negozio dove tutti correvano. E c'è la descrizione che Patricia Highsmith fa di questo passaggio che a me, ma penso che l'ho consumata quelle pagine a forza di rileggerlo, no? Perché quando tu cominci a percepire delle sensazioni nei confronti di una persona e non sai ancora bene perché, oppure sei contenta che te capiti, indipendentemente dalla tua consapevolezza, comunque certe cose ti succedono e sono sconvolgenti, perché tu veramente ti sembra che quella persona che tu stai guardando e che ti dà così tante emozioni sia illuminata da un faro e stia a rilievo rispetto a tutto il resto, capito? È bellissimo. L'hai trovata? Non lo so se 100%, capito? Se ci sono tutte. E come si intitolava, te lo ricordo? No, non c'hanno di. Ah, non c'hanno di. Poi un altro libro carina era della di Rienzo, Favole per adultere. Ah, sì, che era molto molto carina, anche quello lì è bello da tanto. Se parliamo di libri. La giungla dei frutti rubini. La giungla dei frutti rubini, ma anche Il pozzo della solitudine a me è piaciuto molto. Ah. E, cioè, di libri significativi, cioè, e poi l'altro libro che ho trovato un dolcissimo eccetera è Pazienza e Sara, Un posto per noi, molto carino, che volle fortemente tradurlo la Fiocchetto, quindi e poi ricordo che ho io delle discussioni che facevamo al CLI dove appunto Fiocchetto diceva sempre ci vorrebbe la liala viola, certo, no? Invece che la via leala collana rosa ci vorrebbe la leala collana viola. E noi che siamo molto più dissagranti della Fiocchetto, diciamo che noi dovremmo fare lesbi full di strada, no? Anni che diciamo che vogliamo fare lesbi, no, però non la trovo, neanche quella lì, vabbè, vabbè, possiamo leggere un'altra. Mi piaceva raccontare questa cosa perché secondo me è una delle feste più belle della mia vita. No, veramente, rincontrarvi, cioè incontrarvi per me fu una bellissima. L'ho trovata forse. Vabbè, la dico. Riderò, sparlerò, racconterò bugie e domani l'avrà già dimenticato. Sono malata, sono malnata e poi tanto dico sempre le stesse cose. Che tu ci sia o non ci sia, ormai è la stessa cosa. Comunque sia, io ho la nostalgia. 2 ore fa mi sono innamorata, tremo d'amore e seguito a tremare, ma non so bene a chi mi devo dichiarare. Non dipende da me, riconosco che non dipende da me. Dipendesse da me, sarei infelice, completa dipendenza. Che bello! Che bello! L'hai capito? E lì nacque. Vabbè. Invece questa... Io qui, tu là. No, quella è proprio qui, tu là. No, non l'ho letto io così. Sono bellissime. Ah, quella vuoi vedere qui? Allora, questa invece dice così. Prima possibile, se passa troppo tempo, non c'è più il prima e non c'è più il possibile. Cioè, ragazzi, è un genio. No, è un genio la Cavalli, sì. Guarda. E va bene. Però io direi che può bastare. Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Ecco la ragione di una donna nella tua vita. Il tuo profilo dita leggere e le favole son vere, su di te occhi di fuoco e il tuo corpo non è un gioco. Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Cerchi la ragione di una donna nella tua vita. Diverso il suo amore, la la la, respira piano, il suo profumo non è strano, la la la, gridalo pure.